Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vogliamo concludere la breve carrellata dedicata alle innovazioni in campo sanitario, iniziata giovedì con il punto sulla penetrazione dell'ICT nella sanità. Parliamo di cartella clinica e fascicolo sanitario elettronici e della possibilità di dematerializzare tutta la refertazione medica, per non parlare delle prenotazioni, delle analisi, delle prescrizioni di farmaci e terapie. Un pacchetto di cui si parla da anni e il cui impatto sul costo del servizio sanitario, come abbiamo visto, varrebbe alcuni miliardi di euro. Ma se questa è una strada aperta che dobbiamo solo percorrere, ci sono altri sentieri promettenti che sarebbe il caso di sperimentare seriamente. Ieri, per esempio, abbiamo parlato del progetto di QuasarMed per permettere un monitoraggio continuo della pressione nei soggetti a rischio ipertensione, che è migliorativo sia per la qualità della diagnostica sia per la qualità della vita del paziente. Ebbene, questo tipo di servizi sono sempre più numerosi e ruotano intorno al concetto di empowerment del paziente. Ci sono milioni di persone che affollano studi medici e cliniche per semplici visite di controllo, per misurarsi la pressione o per fare l'elettrocardiogramma. L'idea è che quanto più il paziente è coinvolto in prima persona in queste attività e ha la possibilità di svolgerle fuori dalle strutture ospedaliere, tanto migliore la sua qualità della vita e tanto più il sistema sanitario viene scaricato da delle attività che sono di routine ma sono comunque molto onerose. È quanto deve aver pensato anche Alessandro Sappia, fondatore di BiotechWare, startup che lo scorso 4 giugno a Roma ha ricevuto il premio Union Camere per l'innovazione per aver inventato CardioPad Pro. Ecco di cosa si tratta. CardioPad Pro è un elettrocardiografo che serve a erogare servizi di telemedicina all'interno di farmacie e punti di acquisizione sul territorio come studi di medicina di base. È un elettrocardiografo che integra al suo interno meccanismi di comunicazione con una piattaforma cloud dove il paziente ritrova poi i dati registrati e i medici autorizzati accedono ai suoi dati per effettuarne tutte le valutazioni del caso. Pensa a tutti i pazienti che vivono lontani dalle grandi città che per effettuare questo esame devono spostarsi per 20-30 km e comunque alla fine fare la coda o magari andarci più volte per ritirare eventualmente in un secondo momento il referto dell'esame. Questa nuova metodologia in telemedicina migliora di sicuro la qualità della vita delle persone riducendo gli spostamenti per effettuare questi esami che sono di routine. Ebbene, oltre ad alcune analisi come appunto l'elettrocardiogramma, anche la consultazione del medico in molti casi potrebbe essere remotizzata, se così vogliamo dire. Esempio, ma se ne potrebbero fare altri 10.000. Il bimbo sta male, ma non è il solito raffreddore e non capite se c'è da preoccuparsi oppure no. Allora, spesso quello che si vorrebbe in questi casi è la possibilità di ricevere un consiglio più che una visita medica. Senza contare che a volte ricevere un consiglio è anche l'unica possibilità concreta. Sentite. In molti paesi in via di sviluppo stanno nascendo iniziative private volte a colmare, o quantomeno a mettere una pezza, all'inadeguatezza del sistema sanitario. In Messico, per esempio, la società Medical Home offre un servizio di telemedicina che permette a oltre 5 milioni di persone di contattare telefonicamente medici qualificati disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Di 90.000 chiamate al mese, i due terzi dei casi vengono risolti al telefono, alleggerendo significativamente la pressione sulle strutture del sistema sanitario nazionale. La Healthline Service della compagnia telefonica Grum & Phone offre un servizio simile di telemedicina in Bangladesh, dove il rapporto medico-paziente è di 1 a 4.000, mentre il servizio Teledoctor 1911 della compagnia telefonica Telenor Pakistan offre anche la possibilità di ricevere le ricette farmaceutiche via SMS. Ebbene, queste soluzioni stanno nascendo soprattutto come iniziative private per rispondere a dei bisogni specifici come la bassissima densità abitativa o la scarsità di medici. Ma è del tutto evidente che potrebbero essere applicate anche da noi, allo scopo di rendere il sistema sanitario più efficiente, liberarlo da una quantità di attività di routine e permettergli così di concentrare gli sforzi su servizi a maggior valore aggiunto e di maggiore qualità. Altro che tagli lineari. Ci fermiamo qui. Appuntamento a lunedì.